passare, prendi questo mio strale, apri il petto e vedrai scritto in thank you. Oh, Que hay solo se sabe amar.

Give up. Preziose, li parcure. Woo! Yeah. Thank you.

98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏多明哥演唱的一组歌剧咏叹调。 Un esercito di prodi non è qui fermo, e la vittoria, e il plauso diventi tutta, e a te mia dolce Aida, frenarti in aricinto, dirti per te pugnato, per te ho vinto. Thank you. vorrei ridarti le dolci brezze del patio suo.

Thank you. nel chiostro appai ancor. Guerra, guerra, in ciel si fa e verrà. E lui messo in fango. Rodrigo, altezza, e tu che stringo al cielo, o mio prente signor, e il cielo del mio amore, alla tua ora sua, e chiama il popolo fiammingo, soccorrer tu. Suo salvatore, ma che vi dio, quale mano fatena, un lampo di dolore su cio tuo balena, muto sei tu, sospiri, hai tristo il cor, Carlo mio, con me, thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。